9 in punto, la versione di Oscar. Oh, no safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 10 aprile. Tra i tanti santi di oggi c'è Sant'Apollonio, lo cito perché è uno di quelli meno ricorrenti nella giornata di oggi. Spero che abbiate passato, dopo la Pasquetta in cui ero insieme a voi anche ieri, oggi un buon reingresso verso il mondo del lavoro. E detto questo, il tema di cui ci occupiamo oggi è in ideale continuità con quello che stiamo trattando in maniera crescente da qualche mese a questa parte. Alcuni mi accusano di essere un po' troppo critico, di essere diventato troppo critico nei confronti del governo dei tecnici, di essere troppo deluso dalla riforma del mercato del lavoro, di essere, lo avete sentito anche ieri quando abbiamo affrontato il tema del ciò che continua a mancare, i tagli alla spesa, e ne abbiamo parlato con Mario Baldassarri. Il punto che vorrei che fosse chiaro è che non c'è alcuna presa di posizione pregiudiziale. C'era e c'è e resta una forte aspettativa per questo quadro straordinario che ha portato l'Italia a doversi dotare di un governo di emergenza e tecnico, e c'era la forte aspettativa che proprio in ragione del fatto di non dover nutrire interessi elettorali a breve fosse legittimo attendersi proprio da questo tipo di congiunzione astrale interventi decisi, energici, che guardano nel medio e lungo periodo agli interessi del paese. E uno di questi temi di fondo, ne abbiamo parlato molte volte anche ieri con il professor Baldassarri, è il fatto che un perimetro pubblico così esteso come è quello che per evoluzione ordinamentale abbiamo avuto nel nostro paese, così radicato tanto da dover perseguire l'idea di mettere in regola i conti più e più volte l'anno con manovre aggiuntive fatte tutte sul versante delle entrate, o per meglio dire per l'80% sul versante delle entrate, finisce per la sua estensione, pervasività, inefficienza organizzativa, sete di nuove risorse aggiuntive, finisce per generare nel complesso organizzazione del paese, in vasti ambiti del mercato, un riflesso condizionato, e cioè la bassa produttività, l'economia relazionale e discrezionale che presiede e continua a presiedere, come vediamo in ciò che avviene nei partiti, il tesoriere della Margherita, il tesoriere della Lega, questo rapporto relazionale che prescinde dal merito e dall'oggettività dei problemi, finisce per pervadere così approfonditamente ed estesamente la società italiana attraverso la vastità del perimetro pubblico, che poi inevitabilmente l'effetto è la bassa produttività di una parte molto estesa del paese. Non è solo colpa diretta del sistema pubblico, ma è un effetto che nei decenni diventa sempre più esteso e che riguarda moltissimi ambiti del mercato domestico e interno, a fronte di consumi che naturalmente non possono che andare giù, stante la recessione europea per l'eurodebito, stante la pretesa crescente dello Stato che erode il reddito disponibile delle famiglie, stante che il fatto che la propensione al risparmio in queste condizioni e dunque all'investimento non può che scendere, come abbiamo visto nei dati in tutti questi giorni. Uno dei punti fondamentali di tutto questo discorso, ed arriviamo al punto di oggi, è quello che, oltre che con le politiche settoriali, c'è un problema di fondo in un paese a bassa produttività per via di questi fenomeni e di tanti altri che oramai studiamo da decenni, perché la crescita italiana e la bassa produttività è un problema che prescinde dall'euro, viene prima dall'euro, si aggrava nella crisi dell'eurodebito, ma è la fotografia di un paese che ha tra i tanti problemi anche quello della sua classe dirigente, non solo la casta politica, i vertici amministrativi, delle classi dirigenti di un paese intese come, da un punto di vista tocquevilliano, liberale dei corpi intermedi, come l'espressione e il meccanismo attraverso il quale si seleziona l'espressione della parte d'Italia nelle professioni, nell'impresa, nella finanza, nel sistema del credito, che deve rappresentare l'interfaccia poi di chi nell'Italia pubblica, nell'Italia amministrativa, nell'Italia dei partiti, è al vertice. Le classi dirigenti del nostro paese diventano per decenni, per evoluzione di un paese relazionale a bassa produttività, a loro volta un problema, perché sono l'espressione di un meccanismo in cui non è il merito, non è la selezione, ma è la cooptazione, è la relazione, ciò che si pratica. E si pratica nella scuola, nell'università, nelle imprese, nelle banche, con estensioni più o meno vaste, ma in una maniera che apparentemente segna a propria volta uno dei tragitti della scarsa efficienza complessiva, della scarsa competitività complessiva di un paese. Ecco, oggi parliamo di questo perché? Perché giovedì scorso è stata presentata la sesta edizione di un rapporto che è diventato un appuntamento annuale centrato esattamente sul problema delle classi dirigenti italiane e di come dare strumenti interpretativi scientifici, economici, sociologici, attraverso i quali continuare a tenere il focus e l'attenzione su questo punto, che è uno dei punti fondamentali, oltre all'efficienza settoriale e intersettoriale della nostra economia, per renderci competitivi, per non rassegnarsi al fatto di andare peggio degli altri, sia quando c'è crescita e noi cresciamo meno, sia quando c'è recessione e noi siamo in recessione più degli altri. Generare classe dirigente. Di questo rapporto, alla sua sesta edizione, ha occuparsi, ad averlo concepito e ad averlo riproposto ogni anno, è la LUIS, l'Università Guido Carli di Confindustria Roma, e giovedì scorso è stata presentata questa sesta edizione in un dibattito pubblico al quale hanno partecipato tra gli altri il presidente della Camera Gianfranco Fini, il presidente del Censis De Rita e il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, oltre che naturalmente i coautori del rapporto e oltre naturalmente al rettore della LUIS, il professore Egidi. E oggi noi abbiamo proprio alcuni di coloro che hanno redatto i capitoli centrali di questo rapporto, con i quali tentare di capire al sesto appuntamento di questo strumento annuale di verifica delle classi dirigenti italiane che cosa esce dalla fotografia di quest'anno di un paese, cioè, che sta in una recessione con problemi che sembrano più gravi addirittura del momento più serio della recessione post Lehman Brothers, che era il secondo trimestre del 2009, perché questo sta fotografando attualmente gli andamenti dell'economia reale italiana. Allora, vi presento i nostri ospiti, che sono Pierluigi Celli, che è il direttore generale dell'Università Luis Guido Carli. L'abbiamo avuto più volte ospite, una vita intera in grandi aziende a occuparsi del personale o di ristrutturazione strategica, non solo la RAI, ma molte aziende, grandi aziende private. È diventato recentemente anche presidente dell'ENI, cioè uno degli strumenti fondamentali per tentare di ridare attrattività al nostro paese, perché si deve occupare appunto del turismo. E intanto lo saluto e lo ringrazio. Buongiorno Celli. Buongiorno. Abbiamo poi il professor Nadio Delai, che è il presidente di Ermenia, è un sociologo ed è uno degli autori appunto anche quest'anno del rapporto LUIS sulle classi dirigenti. Buongiorno professor Delai. Buongiorno a voi tutti. È il professor Carlo Trigilia, che insegna sociologia economica all'Università di Firenze, è un editorialista del Sole e anche lui scrive uno dei capitoli fondamentali di questo rapporto. Buongiorno e grazie al professor Trigilia. Buongiorno a voi. Allora Celli, dovesse darci una fotografia iniziale, quello che emerge da questa sesta edizione rispetto alle precedenti, che cos'è? Dunque, io sono almeno indicato, devo dire la verità, a parlare di questo rapporto, perché io ho contribuito pochissimo a questo rapporto, quindi gli indicati sono sia Delai sia Trigilia, perché credo che sia giusto poi dopo attribuire gli onori e oneri alle persone che in qualche modo li hanno. Noi siamo arrivati al sesto rapporto sulla classe dirigente facendo un percorso lungo, partendo da un bisogno che avevamo rilevato come esigenza di riflessione su un tema che sembrava sfuggire alle analisi e alle riflessioni normali che venivano fatte. Abbiamo cercato di interpretarlo, di analizzarlo da più punti di vista, guardando l'Italia, guardando all'estero, soprattutto in Europa, e credo che questa volta abbiamo cercato di capire che cosa avviene o che cosa può avvenire, qual è il contributo possibile alla formazione delle classi dirigenti, non tanto delle imprese in se stesse quanto dell'associazionismo, delle categorie di intermediazione tra i bisogni e poi dopo gli interessi in qualche modo difesi. Credo che questo sia un po' il focus. Allora, professor Trigilia, il punto che lei affronta all'interno del rapporto di quest'anno è il rapporto che c'è tra la rappresentanza degli interessi economici e le politiche pubbliche per la crescita, cioè uno dei punti di fondo di cui in questi anni si continua a lamentare l'insussistenza di fronte al fatto che lo Stato poi nelle politiche fiscali di bilancio pubblico antepone di fronte alla stretta europea il risanamento fatto per via fiscale, e si dice sempre, era il refrain sul governo Berlusconi, resta nel governo Monti, manca la crescita. Però la questione è, di fronte a questo punto, la rappresentanza degli interessi economici, quindi quelli dell'impresa, quelli delle banche, quelli delle assicurazioni, eccetera, eccetera, sono a propria volta la fotografia di un problema di scarsa qualità, di meccanismi di selezione discutibili. Il dibattito che abbiamo alle spalle anche sulla riforma del mercato del lavoro è basta con le concertazioni corporative e il diritto di veti. Ecco, tutto questo rispetto al capitolo che ha scritto, se dovessimo procedere per sintesi, la rappresentanza degli interessi economici è andata più avanti rispetto alla politica che resta bloccata, è rimasta indietro, è un processo di osmosi per cui i difetti dell'uno si riverberano in quelli dell'altro? Ma in estrema sintesi direi che c'è un problema della classe politica in questo paese, ma c'è un problema anche del sistema di rappresentanza. Questa parte del rapporto che io ho seguito sottolinea in particolare il fatto che il sistema di rappresentanza degli interessi in Italia, quindi considerando sia il versante datoriale sia il versante delle organizzazioni del lavoro, quindi dei sindacati, presenta una conformazione tale per cui normalmente è stato più un ostacolo alla crescita del paese piuttosto che una risorsa. E cerca di capire, diciamo, i motivi di questa storia. I motivi sono anzitutto legati alla forte frammentazione del sistema degli interessi, sia per quanto riguarda il mondo datoriale, le analisi comparative fatte per rapporti dell'Unione Europea mostrano che il nostro mondo datoriale in termini di organizzazioni di rappresentanza è il più frammentato dopo la Romania. E anche per quanto riguarda il versante sindacale siamo ai primi posti in termini di frammentazione. E questa frammentazione crea molti problemi perché crea difficoltà a fare funzionare sia le relazioni industriali sia un rapporto più positivo con il mondo della politica. Per capire questo punto è importante sottolineare il fatto che un sistema frammentato è un sistema che ha più difficoltà a, diciamo, internalizzare da parte delle organizzazioni di rappresentanza, ad appropriare dei benefici di comportamenti cooperativi, di comportamenti responsabili. Ora, il problema del nostro sistema di rappresentanza è che è forte dal punto di vista organizzativo, cioè ci sono molte organizzazioni con tanti rappresentati, ma è debole dal punto di vista della responsabilizzazione dei soggetti. E quindi questo determina un rapporto con la politica in cui è più facile uno scambio particolaristico, cioè le organizzazioni premono per dei vantaggi particolari, ed è difficile anche mettersi d'accordo in termini di relazioni industriali. Questo, diciamo così, è un pochino la tradizione di quelle fotografie assiepiatissime del tavolo della Sala Verde di Palazzo Chigi, di decine e decine e decine di sigle, di fronte alle quali poi c'era da una parte la polemica dei più di loro che dicevano tanto poi a contare sono solo la triplice sindacale Confindustria, e dall'altra si vede però anche come questa prassi sia un pochino modificata. Se posso chiederle, per esempio, cose che sono avvenute nel recente passato italiano, negli ultimi due anni, tipo il fatto che grandi associazioni dell'artigianato, del commercio, del lavoro autonomo si siano date una rappresentanza più convergente attraverso Rete Imprese Italia, da una parte, e dall'altra prassi come quelle che abbiamo visto il professor Tergilia proprio al tavolo della riforma del mercato del lavoro, in cui il governo ha detto noi non seguiamo la strada della tradizionale consegna di un documento aperto poi sulla base del nostro testo a tutte le obiezioni, diamo un'innovazione, intanto vi diamo un indirizzo di fondo, poi voi ci mandate i vostri indirizzi oralmente o per iscritto, dopodiché noi chiudiamo su un testo. Ecco, questi due esempi, che sono tutti del nostro recente recentissimo passato, da questo punto di vista sono un superamento o un tentativo di superamento che indica una strada, professor Tergilio, oppure siamo alla ricerca un po' a tentoni ancora di come superare questo frazionamento? Addirittura, insieme alla Romania, siamo i più frazionati di tutti. Ma Ma guardi, sicuramente per esempio Rete Impresa Italia ed altri processi di aggregazione importanti nel mondo datoriale sono certamente un passo avanti, perché riducono questa frammentazione che è quella che rende difficile poi mettersi d'accordo intorno alla produzione di interessi, di beni collettivi, diciamo, che è un contributo fondamentale che un sistema di rappresentanza maturo, autorevole può dare. Quindi questo è un processo da seguire, siamo ancora però molto agli inizi e sul fronte sindacale il discorso invece è ancora molto molto critico, perché le divisioni, soprattutto negli ultimi anni, sono cresciute e complica le cose. Quanto al giudizio sullo stile nuovo del governo, naturalmente questo giudizio diciamo, immagino che sia un giudizio normalmente positivo, è quello che si sente, perché c'è stanchezza verso il ritualismo, la ritualità di questi incontri con questi tavoli, adesso non si fuma più, una volta si fumava, ma comunque sovraccarichi in cui diventa molto complicato prendere delle decisioni. Io però vorrei fare notare che ci sono paesi, prendiamone uno col quale ci confrontiamo per esempio continuamente con questa faccenda dello spread, che è la Germania, che è un paese che pratica di fatto uno stile concertativo, se non lo vogliamo chiamare così, è uno stile di coordinamento, di cooperazione a livello macro e a livello micro. E ma no, la che poi vive anche di una lunga storia evolutiva, di un ordinamento in cui nella media grande impresa tedesca, la Mitbestimmung, esprime attraverso un modello consolidato di governance, insomma, con i sindacati che stanno nel consiglio di sorveglianza. Esattamente. Allora, diciamo, bisogna stare attenti a immaginare che la soluzione, diciamo, di questa inefficienza del nostro sistema di rappresentanza vada semplicemente in una direzione più vicina a quella del mondo anglosassone, soprattutto americano, che è caratterizzato da una maggiore debolezza, ma anche lì però questa debolezza si accompagna spesso al carattere lobbistico di molte organizzazioni degli interessi. Quello che voglio dire è che ci può essere un sistema di rappresentanza forte che diventa una risorsa se questo sistema di rappresentanza riesce ad orientarsi alla cooperazione. Lì è importante il tema che lei introduceva, cioè anche il tema della leadership, una leadership che sia in grado di sapere anche resistere alle lusinghe che sono venute negli anni scorsi, non so se verranno ancora, da parte della politica per scambi di consenso a breve. Facciamo un esempio, bisogna avere il coraggio anche di dirle queste cose. In Italia si sono spesi negli ultimi, dal 1995 alla fine degli anni 2000, circa 200 e rotti miliardi di incentivi alle imprese. Questo è l'esempio di un sistema che non funziona, perché questi incentivi sono ben noti per la loro inefficienza ormai a chi studia queste cose, continuano ad essere richiesti dalle organizzazioni di rappresentanza perché sono un modo di dare una risposta breve alle pressioni della base che soffre la difficoltà, la crisi, eccetera, eccetera, ma sono l'esempio di quello che non si dovrebbe fare, cioè invece di chiedere incentivi una leadership consapevole dovrebbe impegnarsi a cercare di risolvere i nodi che poi quegli incentivi tentano malamente di compensare. Pensi per esempio al Mezzogiorno, a che cosa vuol dire continuare a dare incentivi alle imprese, sprecare soldi invece di cercare di affrontare il problema delle infrastrutture, il problema dei servizi, il problema dei servizi alle imprese. Lì per esempio abbiamo delle organizzazioni di rappresentanza degli interessi che si sono ormai specializzate nella mediazione con la politica regionale. Esatto. Di fornire servizi, invece di contribuire a definire obiettivi di qualificazione dell'ambiente che sono oggi importantissimi sia per fare arrivare le imprese, sia per sostenere le imprese che vogliono muoversi nel mercato. È un errore, mi scusi, sì. Sì, no, no, guarda, tanto la ringrazio per aver fatto questo esempio, perché mi tocca dire, questa è la radio di Confiduzio, io sono un esterno, un pro tempore conduttore, e su questo io mi sono trovato sempre in crescente difficoltà in questi anni, perché se andiamo a vedere, a proposito esattamente di sussidi alle imprese, se andiamo a vedere il conto del Ministero dell'Economia, come vengono tipizzati ed elencati, noi vediamo per l'anno 2011 elencati 43 miliardi di trasferimenti alle imprese pubbliche e private nel nostro paese, di cui 15 di questi 43 sono in conto economico e sono ai grandi gruppi pubblici, essenzialmente Poste e Ferrovie per le maggiori cifre, più alcuni altri grandi gruppi pubblici e piccoli controllati. Ma oltre a questi 15, la mia modestissima opinione, l'ho sempre detto e scritto, sarebbe che dovrebbero venir meno anche questi 15, perché comunque sono sussidi, sia pur coerenti con l'attuale disciplina europea. Ve ne sono poi 28 miliardi che nel rendiconto economia sono di trasferimenti alle imprese, anche qui in qualche misura pubbliche, molte locali, ma poi molte anche private. E sono esattamente questi i trasferimenti svincolati dall'avanzare dal controllo di progetti industriali a pioggia di cui parlava il professor Trigilia. Un sistema della rappresentanza d'impresa, secondo me, coerente all'obiettivo di volere meno spesa pubblica per liberare pressione fiscale, per dare meno pressione sul lavoro e impresa, dovrebbe dire che in larghissima misura, quantomeno la componente dei 28 miliardi che non vanno ai gruppi pubblici in conto economico, dovrebbe essere ridotta a più di 6-7 miliardi, che è già 5 volte l'ammontare del credito fiscale per pura innovazione tecnologica data negli ultimi 5 anni, in media non più di un miliardo l'anno, con quel rito barbarico del click day. Ecco, lo si può moltiplicare per 6 per 7, ma per il resto quella roba lì andrebbe semplicemente depennata come contributo a reperire punti di PIL di minor spesa corrente per un abbattimento fiscale concentrato sul lavoro impresa. E io ringrazio il professor Trigilia perché mi dà la riocasione di dirlo, e la mia difficoltà è stata quella di Confindustria, che ogni volta diceva no, ma in realtà non sono queste le cifre, nel rendiconto del Ministero dell'Economia sono queste. E io, questa è la logica del rispetto dei numeri di contabilità pubblica a cui credo tutti quanti ci dobbiamo adeguare, a prescindere dagli interessi. Eccoci tornati qua in studio, in questa seconda parte della trasmissione, martedì 10 aprile. Abbiamo con noi il direttore generale della LUIS, Pierluigi Celli, il professor Carlo Trigilia e il professor Nadio Delai, che hanno, gli ultimi due, sono coautori di questo sesto rapporto sulla generale classe dirigente, che è l'occasione annuale con cui tentare di fare un focus sul problema delle classi dirigenti italiane nella loro accezione più ampia, quindi tentando di identificare un discorso complessivo di come si fa a migliorare la struttura della rappresentanza. Di questo abbiamo parlato, una rappresentanza molto frastagliata, pari solo a quella della Romania per frastagliamento, ci ha detto il professor Trigilia. Abbiamo toccato recentemente il punto anche di che cosa comporti per la finanza pubblica l'eccesso di dispersione. Significa una moltiplicazione ovviamente delle istanze a cui la politica poi per il ciclo elettorale può dire sì, ma tutto questo quando poi finanza pubblica va prosciugata perché c'è troppa pressione fiscale, comporta un ulteriore passo verso la deproduttivizzazione del paese. Col professor Delai vorrei toccare invece uno dei punti che a noi nella radio negli ultimi mesi stiamo trattando con crescente pressione dal basso, perché è uno dei punti anche che poi ha animato il confronto molto acceso e senza precedenti della successione Emma Marcegaglia in Confindustria, perché nella storia di Confindustria non c'era mai stato un margine tanto esiguo quanto quello che ha diviso alla scelta per la designazione del presidente successivo Squinzi rispetto a Bombassei, due candidati divisi solo da 11 voti, 93-82. È uno dei temi, è esattamente quello in Confindustria, ma è uno dei temi in tutte le rappresentanze d'impresa, di come il prodotto rappresentanza debba cambiare, per così dire. Ed è esattamente poi il tema centrale della riflessione che il professor Delai svolge nel suo capitolo, cioè quanto l'identità nella rappresentanza di un sistema d'impresa debba prevalere rispetto invece alla sete di servizi chi si iscrive, sta in un'associazione, vuole in cambio dei contributi, debba pesare quanto quando poi l'identità è un tema che apparentemente è ovvio che dovrebbe andare dietro rispetto ai servizi, ma poi il tema dell'identità risorge, è risorto nel confronto sul mercato del lavoro all'articolo 18, ma risorge per esempio di fronte a tutte le istanze dal basso di cui ci dobbiamo occupare ogni giorno, di fronte alla lunga lista degli imprenditori, degli artigiani, dei commercianti che si suicidano perché disperati e perché non avvertono nella rete sul territorio delle proprie associazioni di impresa un'interlocuzione, strumenti disposti a reggere in qualche modo e a dare orecchio oltre a quello che i sistemi di rappresentanza hanno messo in campo, per esempio contro il credit crunch, la moratoria, il fondo di garanzia. Tutto questo, l'identità da una parte e la disperazione di una fascia crescente di piccola impresa che si sente abbandonata, di fronte al fatto mettiamo i servizi avanti, ma quando invece poi il problema diventa di una recessione che morde, di ordini sul mercato domestico che scendono, problemi col sistema bancario e con lo Stato e con l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia, ecco che il vecchio problema, più identità o più servizi agli iscritti, assume un'altra caratteristica, ed è una caratteristica della crisi più che della forza di chi poi deve rappresentare impresa nel nostro paese, Delai, o no? Ma ci sono tre cose da dire. La prima è che la mutazione in corso, perché di mutazione si tratta, genetica, magari forzata, delle imprese, della rappresentanza politica e delle stesse istituzioni, non può lasciare da parte chi fa rappresentanza economica, con fiducia compresa ovviamente. Cioè è impossibile fare una buona rappresentanza se non si assomiglia in qualche modo alle imprese. Le imprese sono mutanti, la rappresentanza deve mutare geneticamente in maniera significativa, certo, mica solo Confindustria. Seconda notazione importante che deriva da questo: il tema identità, servizio, rappresentanza, ricordiamoci che è sempre un mix fondamentalmente guidato dalla rappresentanza e non dai servizi, perché come voi ricordate Tocqueville aveva detto molto chiaramente: noi abbiamo un sistema democratico, diceva allora, degli Stati Uniti, governato da una democrazia per lui compiuta, da un lato diciamo la democrazia dentro le istituzioni e dall'altra la democrazia e la partecipazione, l'auto-organizzazione, la rappresentanza nel civile. Ebbene, ricordiamoci la cosa fondamentale da cui parte il rapporto di quest'anno, anche col pezzo di Fabbrini, distinguendo tra governance e government. E qui è un tema importante e scivoloso, perché questo vuol dire che le associazioni di rappresentanza debbono in qualche modo essere più vicine ai bisogni reali dei loro rappresentati e portarne certamente le istanze. Slittando verso l'alto troppo, cioè verso sale verde, per capirci, ma guardi che di sale verdi ce ne sono anche in periferia, e anche i presidenti delle periferie sono tentati dalle sale verdi, no? Tu non fai rappresentanza solo facendo sala verde, tu devi fare rappresentanza di fronte, in piede, dentro la realtà effettiva dove ci sono i bisogni reali e poi l'espressione di questo. Poi c'è il governo, è quello che decide, su cui in qualche modo il comportamento del governo Monti ha spiazzato in maniera anche sana, ricordando la distinzione tra la governance, di cui fanno parte le rappresentanze economiche, dal government, che fa capo effettivamente alla dimensione di governo e Parlamento. Allora non dobbiamo perderci nell'intreccio, ci vuole la rappresentanza in prima istanza, che vuol dire interpretazione e mediazione degli interessi di una categoria o di più categorie, e attenzione, e in certi momenti dimenticare persino gli interessi delle categorie per gli interessi del paese. È chiaro che il 70% dell'impegno deve essere messo nella rappresentanza degli iscritti, ma ci sono dei momenti in cui l'altro 30% è ancora più importante. Poi c'è l'identità, e l'identità è un tema oggi molto delicato, perché quello che abbiamo visto e quello a cui assistiamo e abbiamo assistito è stata la rottura tra interessi e identità. Vedete, fino alla caduta del muro di Berlino, in maniera diretta o indiretta, alla fine l'identità prevaleva con facilità, perché insomma c'era sempre un mondo a cui contrapporsi. Con l'estinzione del nemico dall'altra parte, gli interessi, sotto la spinta dell'economia, della diversificazione, per carità, dell'articolazione delle imprese, ma anche sotto la spinta della mancanza di collante ideologico, ha fatto sì che identità e interessi si siano spaccati, e oggi mettere insieme, in presenza di una frammentazione così spinta, rende difficile, ma rende importante anche ritrovare un'identità comune. Poi vengono i servizi, cioè voglio dirlo chiaro, guardate che un'associazione di rappresentanza che non dà servizi è un'associazione di rappresentanza autentica. Un'associazione di rappresentanza che dà servizi ma non dà identità e rappresentanza non è un'associazione, è una SPA. Questo lo spiego sempre anche ai presidenti, quindi dobbiamo avere chiare nella testa queste condizioni, se no non funziona. Posso chiedere a Celli, sia pur tenuto conto del suo caveat iniziale, cioè io da questo punto di vista sono più che altro un organizzatore di lavori altrui, però nella sua esperienza come osservatore nei diversi luoghi dove ha svolto la sua prestazione professionale in questi 15 anni, 17 anni che abbiamo alle spalle, chiamiamola la Seconda Repubblica. Allora, una concezione politica, il sistema politico, manca con noi il professor Fabbrini che si è occupato esattamente di questo, di vedere come la politica comparata nei diversi paesi influenza direttamente poi il problema della rappresentanza delle stanze economiche, ma abbiamo 17 anni alle nostre spalle, Celli, di fortissimo scontro muscolare, di maggioritario zoppicante che non si è rivelato in grado di mantenere le sue promesse, e da una parte avevamo invece una rappresentanza di interessi economici, datoriali, sindacali, che era abituata dagli anni 70 alla concertazione. Allora, la fine dei 17 anni che abbiamo alle spalle, perché di questo si tratta col governo Monti e con la crisi dei partiti con cui siamo alle prese e gli scandali, secondo la sua osservazione, nei diversi posti dove ha prestato servizio, che cosa porta alla rappresentanza che a propria volta si era muscolarizzata, ma senza mai poi riuscire a produrre riforme incisive? La tendenza è quella di un ritorno alla vecchia cosa della concertazione obbligata, o è quella, secondo modelli più efficienti, invece di evitare tanto di essere muscolari quanto di essersi ciascuno intestatario di diritti, di poteri di veto? Ecco, cioè, come vede il bilancio di questi 17 anni finali, per quello di cui parliamo oggi, cioè classi dirigenti, non quelle politiche e amministrative? Ma ci sono alcune osservazioni da fare. Prima, che secondo me noi ci siamo abituati a confondere governance con governance, per cui abbiamo attribuito alla governance anche funzioni di governance, e questo ha in qualche modo, come dire, dato legittimità al fatto che gli interessi svincolati dall'identità dessero nuove identità che erano in qualche modo contrapposte agli interessi più generali, e questo si è verificato. Questo ha prodotto sostanzialmente una incapacità di interpretare l'innovazione e ha continuato a generare una classe dirigente tutto sommato legata a schemi vecchi che devono trovare soluzioni nuove e che in ogni caso non sono in grado di esprimerle. Questo, la governance anche delle rappresentanze è una governance vecchia. Lo dico anche in rapporto a me stesso, cioè non è possibile che un paese non riesca a esprimere, per esempio, un presidente dell'ENIT che abbia meno della mia età, è impossibile, dovrei poterlo fare. E quindi c'è tutta una serie di cose che vanno ripensate, proprio perché in realtà la classe dirigente che si è prodotta in questi anni o non si è prodotta in questi anni non è all'altezza delle sfide che il paese deve in qualche modo affrontare. Per cui dobbiamo delegare a un gruppo di tecnici la forzatura del sistema, pensando che qualche altro gli venga dietro, mentre gli altri alla fine, sentendosi inadeguati, perché alla fine sono inadeguati o si sentono inadeguati o vengono ritenuti inadeguati, lavorano in termini difensivi secondo modelli che sono assolutamente superati. Oimè, io concordo molto con queste parole di Celli e ci tornerò con un paio di esempi, perché adesso dobbiamo interrompere per le informazioni sulla circolazione stradale. Ed eccoci tornati per questa ultima parte della trasmissione di oggi 10 aprile. I DOR ci accompagnano sempre, purtroppo, nostro malgrado, l'avete scelto anche voi, ma avete visto che poi le questioni, purtroppo, della cronaca italiana e delle cronache internazionali dei mercati finanziari continuano a darci, purtroppo, ripeto, ragione sulla necessità di essere vigili. Allora, quando Celli diceva, faceva il suo esempio personale, io non sono d'accordo naturalmente sul fatto che la sua età sia un problema, però c'è una questione di fondo. Pensate a due esempi. Pensate a che cosa è avvenuto pochi giorni fa in RCS. I giornali non sono riusciti a descriverlo bene, perché in realtà è un contrasto tra alcuni azionisti nuovi, aggiunti rispetto al vecchio patto di sindacato RCS. Dico Della Valle ha dato voce, ma insomma ci metterei anche Rotelli, gente che ha messo molti milioni in un'azienda che ne ha bruciati molti rispetto ai valori che hanno comprato. E di fronte a questo si sono trovati un patto di sindacato in cui alcuni componenti hanno chiesto al garante vero, morale, e della continuità aziendale in RCS, che è il professor Bazzoli, che naturalmente non siede nei consigli, ma che è così, di vedere se si poteva identificare un criterio compositivo completamente diverso, compreso il cambio del direttore del giornale, Con un consiglio però che non rappresentasse gli azionisti ma fosse fatto di figure terze indipendenti, e con alcuni che si mettevano d'accordo sul nuovo presidente del patto del sindacato al posto di Marchetti, e con magari un cambio anche del direttore. Altri, protestando contro il fatto che non fossero gli organi a occuparsi di questo e col fatto che avevano dei soldi dentro, si sono detti contrari perché potevano accettare l'idea di un comitato, di un consiglio di amministrazione in cui non erano direttamente espressi, ma se solo ci fosse stato un progetto chiaro valutato dagli azionisti negli organi su come risanare una società che ha perso moltissimo le sue partecipate estere e naturalmente su chi fosse l'amministratore delegato. Risultato: Bazzoli, la Fiat e Mediobanca portano a casa una situazione nella quale il consiglio di amministrazione è fatto di indipendenti, Diego Della Valle esce dal patto sbattendo la porta perché dice: non mi sono potuto occupare, dopo tanti soldi che ci ho rimesso, né del piano strategico né del nome dell'amministratore delegato, che infatti viene scelto dopo questo consiglio di amministrazione. In tutto questo il vero garante rispetto a chi voleva strappare ancora di più da una parte è il professor Bazzoli. Non mi soffermo sugli anni del professor Bazzoli, ma mi soffermo sul fatto che da molti decenni dopo Enrico Cuccia è diventato il garante delle grandi operazioni di sistema, è quello di fronte al quale poi tutti gli altri vanno, espongono all'orecchio e stanno alle loro indicazioni. È possibile, è maturo un paese così? No, esprime evidentemente interlocutori non all'altezza. L'ho già fatto l'esempio nei giorni scorsi del caso Fonsai, di come Mediobanca, grazie a ISVAP e soprattutto alla Consob, per me incomprensibilmente, sta sistemando un problema enorme di perdita di valore, di conflitti di interesse giganteschi, di fronte ai quali per anni tutti gli organi di informazione del sistema Mediobanco hanno tutti taciuto, per poi scoprirlo quando era troppo tardi e dire che adesso deve subentrare nel controllo Unipol, ma senza aumento di capitale per dare il premio di controllo, oltre che ai resti, anche agli azionisti di minoranza. Mi pare un'altra eclatante riproposizione di esempio del fatto che le classi dirigenti bancari, finanziari, imprenditoriali dei piani alti del nostro paese a propria volta siano in uno stato generale di scarsissima possibilità di essere assunti come benchmark credibili di fronte ai mercati internazionali, di fronte a grandi imprese che rispettano in maniera diversa i diritti degli azionisti di minoranza e stanno negli organi a confrontarsi e accettano di farlo secondo regole che non sono diverse per gli amici degli amici. Parlo brutalmente fuori dai denti, in una maniera polemica forse non troppo abituale per i microfoni della radio di Confindustria, ma credo che sia meglio farlo, perché si può chiedere alla politica il cambiamento di discontinuità che ci aspettavamo da questo governo tecnico, quanto più nel proprio mondo si è mondi degli stessi difetti, altrimenti c'è un problema di ordine generale, per così dire. Chiederei due opinioni finali di un minuto e mezzo a testa a questo punto, sia a Trigilia che a Delai, per chiedere, al di là di quello che hanno scritto in questo rapporto sulle classi dirigenti, l'impressione che loro hanno di ottimismo o pessimismo, per così dire, sulle linee di discontinuità che si sono rivelate rispetto alla fine di questi 17 anni politici per il problema di cui stiamo parlando oggi. C'è una reazione, secondo Trigilia, che viene dal mondo della rappresentanza economica che è più avanti rispetto a questo bilancio, che è ancora difficile capire dove ci porterà invece del 17ennio di bipolarismo scazzonte italiano e di questo stesso governo tecnico, perché questo lo si vedrà alle urne, è difficile dirlo, non spetta a noi oggi occuparcene oggi, ma invece lo scuotimento dal basso dopo tanti anni di crisi della rappresentanza la vede pessimista o ottimista? Strategia. Ma guardi, è difficile rispondere a questa domanda. Sicuramente noi abbiamo perso molti anni, abbiamo perso un quindicennio in cui il paese è rimasto praticamente bloccato mentre gli altri si muovevano e mentre i problemi all'esterno crescevano. Quindi questo è un dato di cui rendersi conto bene anche nel valutare quello che sta succedendo adesso. Abbiamo un governo che certamente è un'anomalia nel mondo delle democrazie consolidate, ma che riflette un po' anche i nostri problemi, cioè il blocco della nostra politica, la difficoltà della politica di dare risposte efficaci, tempestive ai problemi del paese. Questo è il vero problema, diciamo, dell'Italia. E in questo momento questo governo suscita molte aspettative, ma bisogna anche tenere conto della difficoltà di sbrogliare la matassa dopo anni in cui la matassa si è aggrovigliata. Per quanto riguarda più specificamente il sistema di rappresentanza, io credo che noi siamo un po' a un bivio nei prossimi anni si vedrà meglio, cioè noi possiamo attenuare di certi difetti il nostro tipo di pluralismo, di sistema di rappresentanza pluralistico debole dal punto di vista della sua capacità di incidere sulla crescita, aveva per quale motivo? Perché si riduce, come lei in un certo senso mi pare facesse prima riferimento, si riduce lo spazio della spesa pubblica. Allora, questa è, come dire, una cura un po' forzata per il sistema di rappresentanza. Però alla fine dovrà tenere per forza conto, per così dire. Dai, se io lo dicessi, in Germania all'inizio degli anni 2000, di fronte alla necessità di dover razionalizzare la spesa pubblica con meno tasse, a cambiare la maniera in cui si facciano i contratti, di solidarizzare in tutti i grandi gruppi, a un certo punto il sindacato, il Gay Metal, dice no, 35 euro per tutti e soprattutto in pensione prima invece che dopo per distribuire il lavoro. Risultato, tantissime decine di migliaia di sindacati iscritti ai sindacati, ai Gay Metal, non rinnovano la tessera. Il sindacato capisce che deve cambiare strategia. Da noi una cosa di questo genere dal basso non si è mai vista, e anzi articolo 18, cioè siamo ancora a temi identitari. È inipotizzabile che dal basso lavoro e impresa diano segnali diversi rispetto alle loro tradizioni identitarie, secondo lei? Lo so che glielo chiedo in pochi secondi, è più una risposta secca, però. Io dico che sono ottimista e penso che questo c'è, perché io lavoro molto in periferia, non solo con Confindustria ma con le altre associazioni, e devo dire che c'è più dinamismo nella periferia che al centro spesso, lo dico con senso di autocritica complessiva, nel senso che ci sono dei momenti in cui traina il centro e dei momenti in cui traina la periferia. In questi anni in cui ha vinto la verticalizzazione anche nella politica, la personalizzazione più la mediatizzazione che ne è derivata, il pensare che comunque tutto si consuma al centro e in sala verde ha fatto dimenticare tutto quello che avviene. Se lei pensa a tutti i contratti con deroga che sono stati firmati dalla CGIL, che vengono firmati quotidianamente, esatto, in tanti territori che ho visto personalmente. Quanto le voglio bene, questo avrebbe dovuto anche nell'informazione prevalere rispetto al solo sconto di Pomigliano e Mirafiori. Appuntamento a domani. 9 in punto.